Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Ciao Drago. Ciao K, però ecco. Dai, adesso un po' in fretta, cominciamo perché le cose da dire sono tante. Cominciamo, sempre l'ansia. Cominciamo con una cosa importante, sì. A dire che in Italia ci sono certe cose non possono essere sconfitte, non si possono toccare, tipo la mamma. La mamma è proprio imbattibile. Ma cosa vuol dire sconfiggere la mamma? Che è un videogioco. Vabbè, ma no, il fatto è che a volte le cose degenerano e le mamme tendono a tenere i figli attaccati a loro ben oltre il lecito e quindi non vabbè, va bene. Ma sono cose che si sanno, Drago, non, so, dai, non possiamo fare uno scatto avanti. Lo facciamo grazie alla Temple University di Philadelphia, Pennsylvania, con il suo studio sui biberon e l'obesità infantile. Ma allora siamo in piena rubrica Sei grassa? Certo, Sei grassa oggi affronta oggi il morboso legame che lega la mamma al suo bambino fin dall'allattamento. Siamo sicuri che le mamme provino un piacere innocente quando allattano? Ma Drago, ma cosa dici? Ma questo è un delirio da Santa Inquisizione. Però sai, anzi da carneficina colonialista. Anzi da la carneficina colonialista. Vabbè, torniamo a noi e allo studio della Temple University che affronta l'annoso problema del biberon. Quando è il momento giusto per togliere il biberon al piccolo? Quando è che il piccolo può finalmente bere dalla tazzina, quella auto... Ma certo che questo qua, diciamo che prima che uccidessero Bin Laden, la Situation Room della Casa Bianca, era proprio impegnata 24 ore su 24 a riflettere su questo tema. Non sarà fondamentale, la ho capito. Tazzina. Però, scusami, questo è un passo avanti verso la sconfitta dell'obesità infantile, perché adesso abbiamo le prove scientifiche che se il bambino usa il biberon troppo a lungo, e cioè oltre i 12 mesi di età, rischia di diventare obeso. Ma cosa vuol dire? Cioè, dati alla mano, i piccoli che continuano a bere dal biberon fino, che ne so, a 2 anni, rischiano di diventare obesi a 5 anni, molto di più dei coetanei che abbandonano prima il biberon, del 30% in più, no? Dati alla mano. Il problema è che i bambini sentono il bisogno del pappatoio almeno fino all'età di 12-18 mesi. Però gli studiosi dicono che già a 6 mesi uno può già dargli la tazza irrovesciabile. Quindi questo vuol dire che a 6 mesi non vogliamo già crescere, siamo già lì che tendiamo a rimanere piccoli, a rimanere attaccati prima al biberon, poi al seno della mamma. Insomma, è una cosa che poi si ripete tutta la vita. E noi siamo qui tutti i giorni, Radio 24, a parlare contro l'infantilismo, eccetera, eccetera. Come si fa? No, sei tu che sei qua tutti i giorni a parlare contro l'infantilismo. E tu dove sei? Io mangerei la Macedonia, per esempio. E ora, bambini, il sonnellino. Drago, oh. Ma quando è che ci sono le vacanze estive adesso? Per chi? Ma come per chi? Per noi, no? Ah, per noi non so, per i bambini tra un mesetto. Ma cosa vuol dire i bambini e noi? Inizio giugno, no? Metà. Ho capito, ma bambini, i bambini, non ma lo noi... so, adesso ci sono gli scrutini da seguire, quindi dipende da quanto ci mettono a fare gli scrutini. Ma gli scrutini all'asilo? Ma insomma, si fa il punto dell'anno appena trascorso, eccetera, no? Noi a dobbiamo te ti stare qui. Comunque quest'anno, A me, ma noi non siamo sotto scrutinio, stai zitto. Dai. Poi ci sono, però guarda, siamo in buona compagnia, perché ci sono i bambini, quelli che non fanno le vacanze, che vengono parcheggiati all'asilo per tutta l'estate. Quindi sereno, siamo qui. Sereno cosa? Io volevo capire se potevo prendermi qualche giorno per andare a Londra, a luglio. No? Luglio la vedo dura, a Londra poi. A luglio dobbiamo lavorare fino al 31. E poi cosa vai a fare a Londra? Scusa, non dirmi che devi andare. Pippa. Ah, Pippa. Non più Kate, Pippa. No, Kate ormai è di un altro. E poi è un casino. Lui cioè, deve andare a fare la missione perché io possa, capito? Devo aspettare che lui vada al poligono di poligono, tiro. E io vado a bussare. Ehi, Kate, sono qua. Ma c'è quelle 2 o 3 ore di tempo. No, Pippa ha l'agenda più libera. E poi è abbastanza carina anche lei. Ma scusa, no? È la donna che oggi tutti vorrebbero sposare. Sì. Arrivi tu da Milano, Pippa. Arrivi tu da Milano, fresco fresco, ti presenti, dici Pippa. Ma guarda che lei mi aveva già messo gli occhi addosso quando mi aveva visto con Kate a Volterra nel 99. Ma scusa, ma Pippa nel 99 era una bambina. Sì, cosa bambina? Aveva 15 anni. Già sapeva. Ma cosa sapeva? Ma dai, capa, dai, guarda Pippa, che chiamo i carabinieri. Guarda che perché... Pippa adesso è adulta. Ma sì, lo so. Pippa mi vuole, Pippa. Pippa. Sentite la canzone di Pippi Calze Lunghe. Ecco, sono qui. Pippi Calze Lunghe, così mi chiamo. Credo proprio chi una non c'è, né non c'è stata mai. Pippi, Pippi, Pippi, che non mi fa fuori da me. Dove mi trovate per quello che farò. Yes! E ora, bambini, ricreazione! No, oh, ci voleva sta ricreazione, Drago, c'ho un mal di testa, una roba. Sei allergico pazzesca. Al polline? Ma che polline? Sono allergico all'asilo. Non c'ho più voglia. Sei allergico al lavoro, in pratica. Ma smetti, non hai più voglia di lavorare. Guarda che è una questione ambientale la ambientale, mia. Perché vabbè, l'asilo dai. Qui è tutto piccolo, sono i banchetti, le seggioline. Per forza. Drago, io sono alto 2 metri. E quindi? Alla lunga mi prende come, capito, un malessere strano. Una invece qua di... fuori è tutto diverso. Qui fuori, Drago, il sole splende, gli uccellini cinguettano e soprattutto le prospettive si allargano. E il mio sguardo può spaziare lontano, quindi il mal di testa defluisce lentamente. Io sono qua sotto, quindi se mi vuoi vedere, è meglio che spazi un po' più vicino, Che ecco. Spazio, bambino alcunché, ma cosa ci fai da queste parti? Ma chissà cosa ci faccio da queste parti, mercoledì, ricreazione. Cosa ci faccio qui? Ho mal di testa oggi, quindi non facciamo l'intervista, lasciamo perdere. No, non la così. Facciamo. Beh, ma io, se per voi non c'è problema, io starei con voi lo stesso. Vedi? Ma c'ho mal di testa. Dai, così. Con voi vecchi mi trovo bene. Mi trovo bene con noi vecchi, hai visto? Molto meglio che con i miei cosiddetti amichetti. Vabbè, ma ancora con sta storia. Dai, bambino Alberto, tu devi andare d'accordo con i tuoi amichetti, con i tuoi compagni, perché è fondamentale per la tua corretta crescita psicologica. Mm. Quante volte te lo devo dire? Mal tu sei un bambino, devi stare con i tuoi compagni. Sta storia l'ho capita. Però questi qui sono tutti troppo agitati. Ma sono bambini piccoli. Ma si danno gli spintoni, si danno i ceffoni. Io non voglio stare con loro. Se no poi spingono anche me, poi mi tirano i ceffoni anche a me, li prendo anch'io. Vedi, K, questo è il germe del bullismo. Come estirparlo? Ma potrebbe avere una risposta il bambino psicologo, sociologo, tuttologo Paolo Crepè. Vabbè. No? Non è previsto il no. E comunque poi alla fine, pensandoci bene, sto bene solo col Gillo. Sì, però, scusa, bambino Alberto, Il fatto che tu vai bene soltanto con Gildo non è propriamente una bella cosa. Perché? È perché bisogna avere più di un amico. Ma non è quello, non è solo quello, è che Gildo non esiste, no? Ma sta zitto. No, vi ho sentito, ancora con questa storia? Allora, così. Gildo esiste? Esiste, vabbè. Scusate, fate un po' sto ragionamento. Se non esistesse Gildo, io non verrei certo in questo asilo dove tutti mi vogliono male. Ma smettila, qui sei tra amici, ti vogliono tutti bene, non fare la solita vittima. Perché poi diventano malattie. Che quale vittima? Tanto ieri Luca e Lia, e sapete bene chi sono, ci hanno rubato la merenda a me, a Gildo. E che merenda aveva Gildo? Perché merenda immaginaria. Ieri aveva i rognoncini. I rognoncini. Ma che merenda è i rognoncini? Scusate, allora Gildo è goloso di rognoncini. Ma trifolati, nonostante l'età. Col prezzemolo. Trifolati, in umido. E quindi sua mamma, la signora Milfia, li prepara sempre i rognoncini. Vabbè, allora vi hanno rubato la merenda, i rognoncini, d'accordo, può anche succedere. Magari i poveri Luca ed Elia non hanno una mamma brava come la signora Milfia che prepara loro i rognoncini, tutte queste. Quali poveri? Non sono poveri. La mamma di Luca ed Elia, che io l'ho vista, non è mica la tipa da rognoncini, dai. E che tipa è? Una tipa da Grande Fratello. Cioè, una che guarda sempre il Grande Fratello, forse. Ma no, è una che dovrebbe partecipare al Grande Fratello. Fare la concorrenza. Però dai, non dobbiamo giudicare le persone dal loro aspetto, mai. Sì, poi parlavano di rognoncini, cosa c'entra il Grande Fratello? Beh, sì, però si vede subito che se uno è capace di cucinare o no. Ma i rognoncini, vabbè, io La signora Mizia, appena la vedi, come diciamo, a figura intera, vedi che è un tutt'uno con la cucina. Cioè, vedere lei fa pensare ai rognoncini, no? Ma come? Ma cosa vuol dire? Anzi, ve lo spiego meglio. Vi faccio un freestyling sui rognoncini? È meglio, dai. Ti faccio io la base, ti va? No, dai, la base cosa? No. Fai la ma base che rognoncini? Ma sì, che freestyling? Dai, allora. Ciao, mi presento. Sogno un rognoncino. E poi noi... Ma vai a tempo, almeno. Ciao, mi presento. No, allora, vado a tempo. Io non ho tempo. No, io sto facendo beatbox. Era la base che No, tu stai tempo, facendo la base sbagliata. No, intanto sto facendo beatbox. Prima frase. Già sento andare la ritmica per gli affari suoi. Va bene, dai. Ok, te la rifaccio. Sto improvvisando, One, two, three, sì, però magari four. Senti. Ma possiamo cambiare argomento? Ciao, ti presento, sono il rognoncino. Mi piace mangiarli tutto il giorno un casino. Li fa la signora amica che è la madre di Gido, che poi li mette in una casseruola. E poi, che poi, invece quando andiamo a casa sua, tipo a vedere la TV dei ragazzi, sì, e vabbè, ci fa pane, burro e zucchero. E rognoncini? Eh sì, triforati. E allora ringraziamo l'autore del messaggio che ci è appena arrivato adesso sullo schermo. Grazie, si chiama grazie. proxy.ilsole24ore.com squid/2.72stable9. No, squid o squirt? Vabbè, insomma, non so, io ti ringrazio. Comunque stable, grazie. Ti ringrazio Squirt, ti ringrazio Proxy, non so qual è il tuo nome. Continuate a fare come lui e scrivete a chiedosilo@radio24.it. Chiedo asilo, Squid.